Allora, siamo al telefono con un compagno all'università che ci racconta come sta andando un'iniziativa che si sta svolgendo proprio in questi minuti contro l'invasione del pratone dell'università, luogo importante di socializzazione e aggregazione in quel territorio, perché insomma occupato dalle tecnostrutture che sono state costruite nei giorni scorsi. Allora, raccontaci un po' il significato di questa iniziativa, che insomma è già abbastanza lapalissiano. Sì, eccoci, vai. Sì, vado. Allora sì, praticamente oggi stiamo riproponendo di fatto un'iniziativa che abbiamo già fatto una settimana fa, mercoledì scorso. Mercoledì scorso abbiamo tentato di fare un'iniziativa un minimo un po' più ludica, giocosa, diciamo, perché siamo partiti con un pranzo sociale e durante il pranzo sociale sono state fatte delle azioni comunicative che consistevano fondamentalmente in volantinaggi e in un attacchinaggio di messaggi comunicativi politici sopra la tendostruttura, questa tendostruttura che, chiarisco, consiste in due prefabbricati con delle tende sopra che prendono più della metà del pratone e sono costate la bellezza di 560.000 euro. Questo già è un primo dato che noi abbiamo cercato la settimana scorsa di mettere in evidenza, perché ci sembra assurdo come si possano spendere 560.000 euro per due cose che si definiscono temporanee. Il rettore stesso dice che saranno qui solo per 2 anni, nel frattempo ha speso tanti soldi per risolvere un problema annoso dentro l'università, cioè la mancanza di spazi e di aule, cosa che va collegata, questo ci tengo a chiarirlo, perché purtroppo quando si affronta un problema qui dentro l'università, ma alla fine anche per tutto il resto, non si incontra mai un problema che sia isolato, ma viene sempre da contraddizioni che sono precedute da decenni. Nella facoltà di scienze politiche e studenza abbiamo avuto un problema per tanti anni, per cui da 20 anni era bloccato un cantiere, che era il cantiere della costruzione dei 2 piani superiori, bloccato 20 anni fa perché fondamentalmente mancavano i muri portanti, cioè 20 anni fa hanno tentato di costruire 2 piani superiori rischiando di fare una strage. Quei lavori furono bloccati e 4 anni fa il rettore Fradi ha deciso di riprendere quei lavori. Per riprendere quei lavori ha tolto di fatto 3 aule a giurisprudenza e 4 a scienze politiche, e il trasferimento di queste aule è avvenuto nello stabile delle poste a San Lorenzo, che la Sapienza aveva rilevato la bellezza di 27 milioni di euro, i lavori di ristrutturazione sono costati 20 milioni di euro, quelle aule, quella struttura è rimasta attiva per 2 anni fino a che pochi mesi fa si è resa necessaria la ripresa dei lavori di ristrutturazione, che ancora non sono ripresi perché pare ci sia l'amianto. Quindi questo è già un altro dato: lavori, spreco di decine e decine di milioni di euro, e questo va di pari passo con la solita cazzata che viene detta da anni, che non ci sono i soldi per l'università pubblica. I soldi ci sono, dipende per cosa, perché quell'appalto pare sia stato dato a soliti palazzinari legati anche con la banda della Magliana. Il problema che ci ritroviamo oggi è questo, che per far fronte alla mancanza di aule, il rettore decide di mettere una tendostruttura, non si capisce bene come debba essere chiamata, nel mezzo del pratone, che è sempre stato un luogo di socialità. Lui stesso a fine agosto dichiarò che, testuali parole, così ci saranno meno feste e ci saranno più lezioni, cioè questa è stata fatta una cosa proprio contro gli studenti, perché da una parte cerca di mettere contro gli studenti del primo anno di giurisprudenza, che sono quelli che soffriscono di queste tensostrutture, contro gli studenti che da anni vivono all'università e che nel pratone hanno sempre visto un luogo in cui passare del tempo che non fosse essere a lezione o essere in un'aula studio a studiare, aule studio che anch'esse mancano. Questa iniziativa cerca di rilanciare un discorso che già l'anno scorso c'era stato, perché già l'anno scorso a giurisprudenza ci fu una contestazione sia al rettore che agli organi dirigenti della facoltà, perché tutto fu stabilito dal fatto che c'erano lezioni in un'aula di matematica composta, aula che poteva contenere 250 persone, in quell'aula c'erano 800 persone, le lezioni furono prese addirittura dalla polizia. Quella mobilitazione Francesco, rimettiti dove stavi prima, perché comincia a venir meno l'audio. Rimettiti dove stavi prima perché il segnale del telefono prende male adesso. Non ti sento bene, purtroppo. No, ti dicevo, forse ti sei spostato, perché prima si sentiva molto bene e adesso non si sente più come prima. Si sente bene? Non proprio, è un suono metallico. Spostati dove stavi prima, immagino che ti sia spostato. Sono rimasto fermo. Sei rimasto fermo. Fermo. Vabbè, questi sono i misteri della telefonia. Non tanto, vabbè. Continua, vediamo. Continua, vediamo un po'. Sì, vai, vai. Sì, sì, continua. Allora, io provo a parlare, poi se interrompiamo la chiamata. Comunque dicevo, l'anno scorso la pubblicazione ha portato a chiesto al rettore di fare di far svolgere le lezioni dentro l'aula magna del rettorato, che è grande, può contenere almeno 1500 studenti. Il rettore l'ha sempre negata perché ci deve fare le sue iniziative sono della musica lirica e le celebrazioni della laurea della figlia, fondamentalmente. Per cui noi la settimana scorsa siamo partiti con questa iniziativa ludica, dicevo prima, un pranzo, un'azione comunicativa e un torneo di calcetto, e invece questa settimana proviamo a rilanciare per aprire un dibattito pubblico interno a quell'università. In seguito, dopo questo pranzo, ci sarà un'assemblea, appunto, sempre qui al Tradone, in cui cercheremo prima di tutto di fornire delle informazioni a tutti gli studenti che non sono informati su questa situazione, e poi cercheremo di trovare qualche spiraglio, qualche proposta di azione tutti insieme per cercare di intervenire su questa situazione, perché poi in tutto questo problema di soldi, di sprechi di soldi, di appalti, eccetera, c'è un problema fondamentale, cioè che l'università si dimostra per l'ennesima volta come una delle istituzioni più antidemocratiche del paese, perché non è possibile che gli studenti che pagano più di 1000 euro di tasse all'anno debbano essere esclusi dalla decisione da decisioni così importanti che riguardano il loro futuro e la loro vita dentro questi spazi. Assolutamente, va benissimo Francesco. Allora, grazie del tuo intervento e speriamo che l'assemblea riesca a deliberare, insomma, in modo operativo qualcosa. Va bene. Ciao ciao. Grazie mille, ciao a tutti e a tutte.